midst of my tears. There's a beautiful lady in there, in the place. Jolie fille, hein, belle fille. Ma ho che promesso di mano, oh Titi. Oh Titi. Titina, Titina,